ora una casa editrice romana, fondata nel 2009, l'Asino d'Oro, specializzata in diversi ambiti culturali, scientifici e umanistici. Negli anni ha creato varie collane di saggistica. Piccolo e bello, di Anna Maria Caresta. A Matteo Fago dell'Asino d'Oro Edizioni chiediamo: quando nasce la casa editrice? Nasce a febbraio del 2009, l'abbiamo fondata io e Lorenzo Fagioli. Ecco, quante collane ha, che tipo di scelte editoriali fa l'Asino d'Oro Edizioni? Dunque, le collane adesso sono circa una decina, la parte sicuramente più importante è quella che riguarda la psichiatria con il Fagioli, poi abbiamo da poco inaugurato una collana di narrativa, abbiamo una collana importante di saggistica. Ed ora invece queste novità, insomma, questa collana Profilo di Donna. E... Esatto, poi ci sono ovviamente gli altri di psichiatria, c'è la collana Omero che è narrativa, abbiamo questa nuova collana Profilo di Donna che invece riguarda figure di donne più o meno note che meritano, perché in questo c'è anche un po' un tema del riportare la donna all'attenzione che merita. Mi pare che ad inaugurare la collana sia un libro su Marguerite Hack, la signora delle stelle. Marguerite Hack è un libro scritto da Pietro Greco che, oltre che essere divulgatore, insomma giornalista scientifico dell'Unità, è anche stato un suo grande amico, quindi abbiamo una visione anche molto intima, molto personale della Marguerite Hack in questo libro.